Giovez, ascolta, sono Master 5. Abbiamo detto tutto. Yo. JP, Jeda, Jojo, yo. Hey yo. Detto tutto, cosa ho detto tutto, non hai mai detto niente, lo sa la gente, cresciuto in una strada, in una periferia, in un ambiente, te che sui muri per far vedere che ero presente, sul micro mai assente, non come qualcuno che non aiuta, si definisce presidente, che è stato imbranato, le ossa si fanno mano a mano, vacci piano, dammi retta, non è strana e sta claro in ogni singolo brano, senza nome a vagare come un vagabondo in tutte le città, girare il mondo contro il corrotto, tappati la bocca con un cerotto, il mio difetto è parlare chiaro e ne vado fiero, ho capito il mio sentiero, non fa per te, ti attaccano le spalle come le iene, sincero cazzo me. Devi darti un obiettivo, man, per stare al passo con i tempi. E col primo concetto ho detto tutto e abbiamo detto tutto. Ti scrivo un tema, così forse capisci qual è il problema. La situazione è sempre più estrema, solita vita, siamo sempre gli stessi. Lavoriamo ma non siamo pagati come Messi. È solo finzione, dici, io non credo. Non la pensiamo uguale, da amici a nemici. Racconto quel che vedo, sento dal mio punto di vista. Sento dal mio punto di vista. Abbiamo detto tutto, colpa tua se non mi hai capito. Rigira il nastro, sì, tutto, magari qualcosa non hai sentito. Magari hai un problema all'udito. Mi trovi in zona col broda senza che giri tutta Torino. Zona sud di Mirafiori che mi ha cullato. Mi ha salvato tutto questo amico è ricambiato. Barre su barre che ho sputato, che uscivano da un processo di questo mio cervello malato. La strada per la felicità non è sempre piana. C'è la salita, la discesa e la paghi cara. Purtroppo anche la cosa più dolce è salata. Il dolore per un amore alla parte amara. Danzo sopra questa base che mi fa ballare e scrollare per secondi un momento male. Sì, ho già detto tutto e spiegato il significato. Dalla cosa più seria alla più banale. Non ci credo veramente che te lo devo rispiegare. Ya te l'ho esplicato todo che devo fare. Fratello di sangue verse, io so yoi e les Joe. Bombe che stiamo a sganciare. Detto tutto pure l'alfabeto, dall'A alla Z. Non sono io che prego in Dio, ma è lui che da lassù mi prega. Spera che riesca a sfondare con il mio sogno. Fa bene a credermi, degli altri chi se ne frega. Jeda.